Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Prepararsi all'emergenza maltempo senza panico e senza polemiche, questo è l'invito del capo della Protezione Civile Gabrielli, che ha annunciato l'arrivo tra domenica e lunedì di una precipitazione importante che porterà eventi estremi da non sottovalutare. Nelle prossime ore i fenomeni più intensi sono attesi nel nord e sud Lazio, in Campania, nella Sicilia occidentale, in Sardegna e in parte del nord-est. I temporali inizieranno domenica dal nord-est, ma sarà lunedì la giornata peggiore e la zona più colpita sarà il Lazio e soprattutto Roma, messa in ginocchio lo scorso novembre da una pioggia torrenziale. È proprio vero. E dalla neve a febbraio poi. Ieri sono dovuto tornare a casa con uno zainetto pieno di giacca vento, calosce, ombrelli pieghevoli, medicamenti per il malessere. Sì, perché evidentemente c'era stato una iperattenzione a quelle che erano le previsioni del tempo, non che poi fossero sbagliate, sì, perché ieri sera verso le 19:30 c'è stato qualche lampo, qualche fulmine, un po' di pioggia, è caduto qualche ramo verso Viale Mazzini, ma sono cose di ordinaria amministrazione in questa stagione normalmente. Quello che invece è stato interessante è stato il clima di crescente attesa che durante la giornata, soprattutto in rete, perché la rete è il grande luogo del riverbero dell'attenzione rispetto alle condizioni meteo. Sta avvenendo, ma nel nostro paese, non so se questo avvenga in tutto il mondo, oggi su questo ci confronteremo, una singolare attenzione nei luoghi immateriali in cui in realtà la cognizione del tempo, del clima, dello spessore dell'atmosfera è del tutto indifferente. Si ricostruisce una sorta di fittizia allucinazione rispetto all'esplodere delle perturbazioni. Sin dalla prima mattina ci si passava nei social network le informazioni: come esci, porti l'ombrello, prendi la macchina, non prendo la macchina, le colf che telefonavano oggi non vengo, non posso venire, non posso attraversare Roma con quello che succederà, gente che non si presentava nei luoghi di lavoro, improvvisamente facce cupe, quello che ho visto ieri mattina nella metropolitana di attrezzature antipioggia, anticiclone. Poi andando avanti, durante la giornata, delle amene notizie, corsa l'accaparramento di sacchetti di sabbia. A un certo punto giravano pusher di sacchetti di sabbia. La gente come se attendesse un bombardamento in una città sovrastata da truppe nemiche. Arrivavano gli obici, le cannonate, le bombe d'aereo, tutte a cercare i sacchetti di sabbia. Io provai a mettere la richiesta in internet: cerco sacchetti di sabbia anche al mercato nero. E improvvisamente tutti mi dicevano dove poter andare a prendere la sabbia. Poi a un certo punto simulai l'allagamento della zona in cui mi trovavo e dissi: cerco pompe disperatamente in area Piazza della Repubblica, e non vi dico poi le offerte ci sono state anche al limite della decenza per venirmi incontro a questa mia necessità. Ma intanto in tutta Roma c'era un sole che spaccava le pietre. Feci un piccolo video che oggi potete osservare nel profilo Facebook Melog Radio 24, nel terrazzino qui della radio, sotto un sole cocente, dicendo: ecco, sta arrivando il maltempo, già vedo le persone che alle finestre stanno tentando di evacuare le loro case, inquadrando la caldaia del termosifone aziendale. Dissi: questa è la pompa, l'idrovora che sta succhiando l'acqua. Beh, oggi vado a vedere, ci sono state oltre 4.000 persone che hanno visto quel video in mezza giornata, mi sembra impossibile. Beh, questo significa che improvvisamente ci siamo accorti che esiste un meccanismo fantastico, meravigliosamente epico, di previsione del tempo, un po' come se fossero delle sibille o degli antichi oracoli o delle sacerdotesse che ci indicano quelle che saranno le ire degli dei che si abbatteranno su di voi. In certi luoghi della realtà si danno previsioni sul tempo. Queste vengono amplificate, queste diventano un effetto sulla società, la rete, i social network, l'uso compulsivo di smartphone che fa sì che ognuno di noi abbia sotto mano continuamente l'attenzione al tempo, amplifica e improvvisamente tutti si aspettano che accada qualcosa. Poi questa cosa La maggior parte delle volte non accade. Ieri, già nel primo pomeriggio, la rete era piena delle foto del sindaco Alemanno che vendeva ombrelli per strada, perché poi l'aspetto divertente di questo esplodere epico è proprio questo, è proprio che diventa un gioco collettivo, un gioco comune. Beh, oggi racconteremo e cercheremo di capire cosa ci sia dietro a tutta questa fantastica epica del Meto, e soprattutto vorremmo sapere quanto voi vi lasciate influenzare da questo meraviglioso, fantastico flusso della previsione del tempo, buono o cattivo che sia. 800240024. Oggi 15 ottobre è previsto l'arrivo di Cleopatra. Ecco, Roma è laggiù, quelle nuvole lì. Non sono nuvole grandi, numerose, però non sembrano particolarmente minacciose, perché si stanno spostando, vedete, verso l'interno, addirittura si apre in alcuni momenti. Ecco, certo sono nere, però sembrano ancora abbastanza aperte, altine, sono numerose. Si tratta appunto di Cleopatra, e il vento le sta spingendo dal mare, dal Tirreno, verso l'interno. Vedete? Ecco, come potete vedere il vento, ed è anche un pochino aperto. Quindi Roma è laggiù. L'idea del social networking, declinata in questa particolarissima situazione, fa sì che molti si sentano in dovere, in diritto di segnalare quelli che sono le avvisaglie del fenomeno atmosferico. Questo è un signore, come ho fatto io per divertimento, ma come hanno fatto migliaia di persone, ieri con il suo smartphone a un certo punto ha cominciato a descrivere quello che accadeva. Ma descriveva una nuvola come io descrivevo un allagamento inesistente, ma questo faceva sì che tutti sentissero in dovere di essere segnalatori, una grande catena della solidarietà che cerca di avvertire della catastrofe imminente la popolazione. Buonasera, giornata di Santo Stefano all'insegna del bel tempo. Infatti la perturbazione numero 13, vedete, si è spostata molto rapidamente verso sud-est. E allora diamo uno sguardo a quello che accadrà. Con l'aiuto delle nostre grafiche possiamo vedere che nel corso di questo pomeriggio al nord Italia avremo condizioni di tempo molto instabile su gran parte del Triveneto. In serata ancora delle piogge interesseranno tutti i settori settentrionali, ma a partire da domani sono previste... Queste sono due realtà che appartengono al passato del racconto delle previsioni del tempo. Edmondo Bernacca, uno dei capisaldi della televisione, della RAI monocratica, che dava le previsioni del tempo come se amministrasse una liturgia, e quello che diceva Bernacca ogni sera era l'unico incontrastato verbo rispetto alle previsioni del tempo. Molto attento, molto vago, mai annunciante catastrofi, era semplicemente serviva per avere il confronto e la collazione con il dolore del calletto, con il mal di schiena, con il pensionato in prima, con l'abbonato in prima fila, che poi corrispondono le cose più o meno, con l'abbonato in prima fila che vedeva Bernacca, e su quello organizzava la propria gita fuori porta, la propria giornata ai giardinetti, la propria passeggiata. E la meteorina è l'aspetto deteriore, la rilettura frivola delle previsioni del tempo, in cui in realtà la previsione diventa il pretesto. Il vero punctum dell'esposizione è l'esposizione appunto della signorina che parla di nuvole, di fulmini, di catastrofi, di voragini, di risucchi e cose del genere. Antonio Sanò, buongiorno. Buongiorno, grazie. Antonio Sanò è l'attualità. Antonio Sanò è il grande artefice della lettura epica delle previsioni del tempo, ma anche delle perturbazioni. Antonio Sanò è responsabile del portale ilmeto.it, che vanta 35 milioni di contatti al mese. Io penso che sia uno dei luoghi in rete più frequentato dagli italiani. Mi corregga se dico cose che non corrispondono alla realtà. Io mi documento. È tutto giusto, a cui oggi si vanno ad aggiungere milioni di persone, gli italiani che utilizzano la nostra applicazione sui nuovi smartphone. Sì, adesso non si faccia, non si smarchetti in maniera subito all'inizio così, sì, così palese. No, cominciamo subito male. Le dico, non so se ha torto o ragione, o non so se questo è un bene per l'umanità o una iattura, però lei ha una grande invenzione al suo attivo. Io lo so perché fui chiamato tempo fa al mio giornale a scriverci un pezzo sopra, e quindi mi documentai su una materia che in realtà a me non destava particolare interesse. negli ultimi mesi gli italiani hanno chiamato con dei nomi fortemente pregni di evocazioni, di studi classici malfatti, di cultura dimenticata, via dicendo, tutti i fenomeni atmosferici. Abbiamo iniziato con Annibale, aprile, sono andati avanti poi con Scipione, Minosse, Caronte, Nerone, Caligola, Lucifero, e siamo arrivati ieri a Cleopatra. Come le è venuto tutti questi nomi che uno pensa che a un certo punto vengano chissà da quale istituto di ricerca o da quale centro occulto di previsione del tempo, in realtà più o meno vengono da Antonio Sanò, o mi sbaglio? Sì, è tutto corretto. In realtà l'usanza, la moda di assegnare dei nomi ai fenomeni atmosferici è anglosassone. Negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania questo avviene da decenni, quindi è un fatto normale. Noi in Italia non abbiamo un centro ufficiale, un'istituzione che ha il compito di assegnare i nomi. Quindi, una volta non era l'Istituto di Meteorologia dell'Università di Berlino che dava i nomi agli anticicloni? Sì, noi abbiamo scritto all'Università di Berlino e abbiamo chiesto: ma noi siamo obbligati a seguire la vostra nomenclatura? E quali erano i nomi di Berlino? Quali erano? Tanto per capire. Nomi di persone, perché loro hanno un mercato. Chiunque, qualsiasi cittadino tedesco può acquistare il nome che preferisce tramite il sito dell'università, poi il ricavato costa 100-200 euro, il nome costa 200 euro, il ricavato poi viene devoluto nella ricerca. Mi faccia un esempio di un nome di un anticiclone inventato dai tedeschi, così vediamo la differenza. Guardi, sono dei nomi tedeschi che io non mi ricordo. Noiosissimi, quindi noiosissimi, illeggibili, noiosissimi. Illeggibili per noi. Abbiamo ricevuto la risposta, ci hanno detto: voi potete dare i nomi che volete, anche qui in Germania c'è un altro centro che dà altri nomi. E quindi lei ha cominciato a inventarsi nomi mitologici? Siamo partiti con Annibale, ma quello che ha avuto proprio grande successo è stato Scipione, come Scipione l'Africano. E la proposta in realtà ci è arrivata da tutta la nostra community, dal forum, da Facebook. Quindi c'è una a giugno, Scipione arrivò a giugno, mi ricordo. A giugno, all'inizio di giugno, è stata la prima ondata di caldo, ma chi poteva immaginare che poi sarebbero state altre sei, sempre più intense. Infatti ci ricordiamo a fine di giugno, a cavallo tra giugno e luglio, il traghettatore Caronte, sì, poi ci fu Minosse, sì. Poi Minosse, certo. Mi pare. Certo, ovviamente in quel periodo c'era il filone dantesco. Poi passata agli imperatori cattivi, Nerone e Caligola. Sono gli imperatori cattivi, Nerone e Caligola, e poi l'ultima ondata di caldo, Lucifero, non poteva che arrivare Lucifero. E adesso invece con l'autunno è ripiegato su... Con l'autunno ci sono i nomi femminili, perché c'è una piccola regola che noi abbiamo preso dai tedeschi, è l'unica cosa che noi abbiamo preso. I nomi maschili alle alte pressioni, agli anticicloni, quelli che portano il caldo e il bel tempo, e invece i nomi femminili li diamo ai cicloni, quindi che portano la pioggia. Quindi le donne fanno piovere, gli uomini aumentano la pressione. Le donne fanno pioggia, però c'è anche da dire che la pioggia è la vita. Sì, ma come mai tutti le vengono dietro? Quello che mi viene a pensare, Antonio Sanò, lei mette nel suo sito: oggi arriva Cleopatra, e si inventa, sì, Cleopatra. Dopo 30 minuti, in realtà, in, sì, tutte le agenzie arriva Cleopatra, tutti parlano di Cleopatra. Anche meno di 30 minuti arriva subito, perché a parte il nome, che può essere più o meno simpatico, ma il fatto di associare un nome all'anticiclone è molto meglio da un punto di vista della comunicazione. Dire arriva l'anticiclone è anche difficile, addirittura la parola. Quindi lei ha personalizzato il fenomeno, ma sì, i dati sull'arrivo reale dell'anticiclone. Noi adesso abbiamo parlato della copertina, del vestitino, un vestito che funziona indubbiamente. Lei può star simpatico o antipatico, uno può dire quello che vuole, ma in realtà ha fatto opinione. Negli ultimi mesi abbiamo definito e nominato ogni fenomeno atmosferico in base ai nomi che lei e la sua comunità si era inventato. Ma poi sulla reale effettività, questa Cleopatra doveva sconquassare Roma, da dove è venuta fuori? Chi ha dato per primo la notizia e ha cominciato a creare il mercato clandestino dei sacchetti di sabbia? Allora, tutto ciò che è avvenuto nella città di Roma in seguito alla previsione Questo, cioè noi, io non sono responsabile ovviamente di quello che è poi delle psicosi che si sono andate creandosi nel nostro sito. Ecco, il dato lei dove lo prende? Questa è la cosa importante, il dato tecnico. Noi riceviamo i dati di partenza con cui elaboriamo le previsioni in un nostro centro di ricerca, un centro di calcolo. I dati di partenza arrivano dal centro ufficiale per le previsioni a breve e a medio termine, che ha sede a Reading in Inghilterra, è il centro di raccolta di tutti i dati di analisi. È quello dove vanno tutti, chiunque va a attingere lì. Giusto, vanno tutti. È come se, scusi, per far capire al pubblico, è come se ci fosse un grande magazzino all'ingrosso che vende merce e previsione del tempo. Tutti possono andarla a prendere. Lei la riconfeziona in maniera che la sua entra nella testa più di quella degli altri, ecco. È proprio corretto, questa immagine è corretta. Quindi, ma loro danno la previsione esatta, scusi, loro danno la previsione esatta oppure danno un modello matematico che poi sta a lei interpretare e spalmare sulla realtà nazionale? No, noi abbiamo poi, c'è una post elaborazione che noi facciamo per l'area italiana ad elevata risoluzione, quindi andiamo a descrivere il nostro territorio tenendo conto. Quindi ha toppato lei su Cleopatra? Come? Su Cleopatra ha toppato lei? No, non è, c'è stato in realtà. Ah, la domanda. Allora le spiego. Noi abbiamo fatto una previsione consultabile anche dal nostro sito, in cui davamo dai 20 ai 40 mm di pioggia nelle 6 ore tra il tardo pomeriggio di ieri e le 23. Infatti c'è stata dalle 19 alle 20 c'è stata. Ma infatti, da un punto di vista strettamente meteorologico, io sono molto soddisfatto, perché la previsione si è rispettata addirittura nei modi e nei tempi previsti. Ci avevamo detto una precipitazione abbondante. È chiaro che c'è stata una particolare stato di attenzione particolare, non tanto sui millimetri di pioggia che dovevano cadere, ma ricordando quello che è accaduto anche l'anno scorso, certo, in cui avevamo previsto, cioè i modelli matematici prevedevano 20 mm, ne sono caduti in alcune zone anche 100 mm, creando grandi disagi, danni, eccetera. Ma poi la protezione civile si basava sui dati elaborati da voi? No, gli allert della protezione civile non si basano sui nostri dati, quindi eventuali, diciamo, particolari allert o sacchetti di sabbia, parole del tipo eventi estremi non sono nostre. Quindi secondo me anche noi usiamo dire precipitazioni abbondanti allerta, ma non usiamo dire è l'evento più forte che si sia mai verificato. Ognuno questo ci mette si fermi un attimo, fermiamoci un attimo, sì. Sentiamo qualche ascoltatore. Michele, buongiorno. Buongiorno a tutti, chiamo da Aversa e vi racconto che sabato, con grande scandalo di mia moglie e di tutti gli amici, ho accompagnato mio figlio di 6 anni alle prove toro sotto l'acqua. L'ho riportato a casa ed è stata un'esperienza magnifica. Ci siamo bagnati. E il telefono azzurro, poi come ha proceduto nei suoi confronti? Nessuno, anzi, mio figlio ha detto che è stata un'esperienza da maschi, è un maschietto molto in gamba, ed è una cosa che sicuramente ricorderemo in futuro. Ci siamo bagnati anche le mutande, con rispetto parlando. Ma una bella doccia calda e passa tutto. Cioè, io voglio dire, dobbiamo riconquistare anche il piacere di vivere all'aria aperta, di farci una doccia poi calda e di sistemare tutto. Cioè non essere terrorizzati da due gocce d'acqua. Ma no, ma come d'estate non essere succubi e schiavi dell'aria condizionata, ma mettersi magari una maglietta di cotone bella leggera e stare tranquilli, così d'inverno in casa mettersi un bel maglione addosso e non tenere la temperatura interna a 35 gradi. Quindi secondo lei, Michele, noi ci siamo rammolliti, siamo troppo abituati. Esatto, io concordo con questa cosa. Allora contesto, avendo dei figli maschi e venendo da una città che è famosa per essere la prima contea normanna del sud Italia, sì, e quindi dico che io devo allevare i miei figli come dei guerrieri normanni. E le figlie femmine che fa? Le fa stare a casa? Le figlie femmine non ce n'ho, aspetto le nuore sperando che si allevate anche loro come sane guerriere valchirie, ecco. Cioè si possono bagnare anche le femmine, va bene. Anna, buongiorno. Buongiorno. Per me le previsioni erano azzeccatissime, come sempre per di più. Certamente non si possono valutare i chilometri e tutto. Io vivo a Viterbo, ho una fattoria. Ieri in fattoria io ho avuto una bufera proprio tra pioggia. Quando è iniziata la bufera, Anna? Ma guardi, non ho guardato l'ora, cominciava a far sera, era già sera, buio, sì. E io ho temuto che scoperchiasse i tetti. Ora, no, è stata fortissima verso sera. Però la cosa divertente è stata fortissima. mattina. Che la mattina già tutti erano già tutti pronti per affrontare la bufera sin dalle prime ore della mattina, c'era un sole fantastico. Lo so, però che facciamo? Dopo, se nessuno mette allerta e succede qualche guaio, siamo tutti pronti a lamentarci. Se dicono che ci sarà bufera, e da me c'è stata, però non sulla sua testa, che la nuvoletta non l'ha seguita e non gli ha fatto utilizzare tutto quello che si era portato e l'ha costretta al zainetto, e dopo noi che facciamo? Allora... No, ma io sorridendo guardo questa attenzione generale al clima. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Mi sente? Certo. Senta, io volevo sottolineare il solito paradosso mediatico al quale ho assistito, vedendo i soliti notiziari meteo nei quali lo speaker, tra l'altro citando la Protezione Civile, parlando di allerta meteo, poi saluta con un sorriso sulle labbra che rende molto poco credibile tutto quello che ha prima raccontato. Cioè, bisognerebbe essere anche un attimino più seri, e allora i casi sono due. Se cioè, com'è? Deve fare la faccia alla circostanza, attenzione. Se effettivamente è un allarme, lo gestirei forse con un attimino più di serietà. Non è che l'allarme riguarda noi cittadini che guardiamo la televisione e non riguarda invece chi lo comunica. Cioè, secondo lei dice ambiguo, perché dice che ci sarà un disastro, poi ride, quindi non sappiamo se dobbiamo metterci nel rifugio antiatomico o andarcene a spasso. Questo è un po' il paradosso. Sì, esatto. Perfetto, hai capito. 800240024. Stiamo parlando della fantastica epica delle previsioni meteorologiche, dei disastri annunciati, dei disastri che poi non arrivano, dell'ansia, dell'apprensione, della collettiva fantasia nel comunicarsi i risultati, le attese, le precauzioni nei confronti degli eventi meteo, quando poi in realtà molte volte non accadono, accadono fuori tempo o accadono concentrati in tempi diversi rispetto a quelli che uno si aspettava. Vedo che questo poi rivela dietro dei retropensieri indicibili. Mi scrivono di tutto gli ascoltatori, un ascoltatore in particolare mi dice che gli uragani hanno un nome sempre di donne, perché quando arrivano sono selvagge bagnate, quando se ne vanno si portano via casa e macchina. È interessante. Rita, buongiorno. Buongiorno Gianluca, io penso proprio di essere in tema in questa trasmissione. Io abito all'Infernetto e l'anno scorso, il 20 di ottobre, dentro la mia casa sono entrati 2 metri di acqua. È un quartiere di Roma, diciamo, l'Infernetto. È il quartiere di Roma che ultimamente è assurto agli onori della cronaca, siamo diventati un caso nazionale. Beh, ieri era il luogo del traffico dei sacchetti di sabbia. Ma l'hai visti te i sacchetti? Esattamente, c'erano, ma devo dire che tutto fumo agli occhi. Ma no, racconta questa storia dei sacchetti di sabbia, a me mi è impressionato. Allora, questi sacchetti di sabbia, tanti sacchetti di sabbia. Ma come erano fatti? Come quelli dei film di guerra? Sì, esattamente, come quelli dei film di guerra. E chi li vendeva? No, arrivavano giù dei camion della Protezione Civile con tante persone di buona volontà che stavano tutti in fila e piazzavano questi sacchetti uno sopra l'altro, creando un argine. Ma dove li mettevano? Alzando l'attuale argine. Allora, dovete sapere che quel territorio lì di Roma dove io abito, ma che è un territorio di bonifica, dove 100 anni fa lì fu fatta la bonifica dalla Bonanima. E attraverso un sistema. Dice la Bonanima perché la rimpiange, naturalmente. No, assolutamente no. Di questi tempi. Assolutamente no, però devo dire che quel lavoro di bonifica vi ha bonificato. Bonificarono tutta l'area attraverso un sistema di canali. Ovviamente parliamo di un territorio che era è una zona di idrovore che agricolo, esattamente, che hanno risucchiato. Un sistema di canali. Con questo sistema di idrovore lì, anche se l'acqua usciva, inondava i canali, eccetera, quindi non succedeva nulla. Poi cosa è successo? Di fatto però che cosa è successo? Che negli ultimi anni quel territorio è diventato un territorio di costruzione massiccia. Dagli anni 60 in poi palazzinari hanno costruito. Dagli anni 60 in poi palazzinari e dagli anni 90 in poi con un piano di zona autorizzato dal comune con regolare concessione edilizia, quindi quando dicono che sono abusivi in parte non è assolutamente vero. perché c'è un piano di zona dove tra l'altro è consentito di costruire i seminterrati, per cui quel territorio, che doveva essere un territorio tra l'altro bellissimo, noi abbiamo la pineta di Castelfusano, il lido di Castelporziano, è un territorio meraviglioso veramente. Quindi non ci sono più, diciamo, le aree di sfogo dell'acqua necessarie. L'acqua piovana che prima veniva raccolta dalle aree verdi e da questo sistema di canali contenuta, ci sono le case, ci sono le case. I terreni non assorbono più, ci sono le case. Il sistema di fognature non è stato fatto, c'è un sistema di fognature vecchio di 30 anni che raccoglie soltanto l'acqua sporca, diciamo, un sistema di raccolta delle acque chiare non esiste, le acque chiare dovevano andare a dispersione in teoria nei canali. Quindi proprio un inferno, canali, quando piove, come quelle bolge infernali. È un inferno. In cui si sta sommersi fino al mento nella materia putrida. Esattamente questo. L'anno scorso ci siamo trovati con 2 metri d'acqua in casa perché l'acqua dei canali che non hanno retto l'impatto, che non era previsto dalla protezione civile, attenzione, noi siamo andati a lavorare tutti tranquilli perché pensavamo a una normale pioggia, di fatto è venuto giù il putiferio in 3 ore, è uscito fuori di tutto, prima sono uscite le fogne perché le fogne non hanno tenuto e poi c'è entrata l'acqua nelle case dalle strade. Quindi non è soltanto acqua, diciamo la verità, è un po' di tutto. No, assolutamente. Fogne, prima di tutto fogne e poi acqua delle strade, per cui colpa dell'uomo, non tanto colpa degli eventi. Gli eventi sono eventi, è l'uomo che poi distrugge il territorio. E quindi quest'anno, per non sbagliare, sono arrivati i sacchetti di sabbia. Sì, ma è tutta fumo all'occhio. Non mi racconti la distribuzione, come avveniva? C'era un sacchettaro che dava il sacchetto? C'erano dei vari camion che distribuivano in teoria alla gente, che non ho capito perché è impazzita. Tutti gli, cioè, andavano lì le vecchie, prendevano il sacchetto di sabbia e lo portavano e a casa. Le persone con le macchine prendevano i sacchetti, 10-20 sacchetti per uno, e se li portavano a casa. Ma era lì. E dove li mettevano poi? Se li mettevano davanti ai cancelli delle rampe dei garage, da dove entrava l'acqua, da dove sarebbe potuta entrare l'acqua, perché non avendo un sistema di scolo delle acque chiare, le strade diventano dei fiumi e quindi entrano nei garage. E cosa è accaduto? Stanotte cosa è accaduto? Stanotte è accaduto che alle 8 noi stavamo tutti lì pronti con gli elmetti, gli stivali, bla bla, pronti per questo evento straordinario, che per fortuna non c'è stato, ma per fortuna hanno dato l'allarme. E ma adesso con tutta quella sabbia che ci fate? Che ci facciamo? Castelli di sabbia per i prossimi, perché siccome il comune non ha fatto nulla, i canali non sono stati messi in sicurezza, è rimasto tutto come era l'anno precedente, quindi non è che è successo quindi niente. Quindi ognuno all'infernetto, cioè nella tavernetta. All'infernetto che deve fare? Si è messo le pompe e idrovore. Quelle non fanno mai male. Come poi manca certo pure la corrente, attenzione, perché quando lì siamo 30 anni indietro rispetto alla città, si è messo i generatori di corrente, perché se le fogne non... voi vivete come diciamo a Berlino quando stava per cascare tutto, nel senso quando arrivavano i bombardamenti o anche in tante altre città d'Europa ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Attendete comunque che arrivi la catastrofe. Franca Mangianti, buongiorno. Buongiorno a voi. Franca Mangianti è una climatologa, 40 anni di esperienza, presidente dell'associazione Bernacca, ex direttore dell'Osservatorio del Collegio Romano. Innanzitutto un commento rispetto a quello che ha sentito adesso dalla signora dell'infernetto, che vivono blindati come sotto le bombe. Allora, indubbiamente ritengo che lei abbia perfettamente ragione, perché purtroppo bisogna pensare prima che avvengano gli eventi, perché molto spesso le costruzioni non sono adeguate, molto spesso si allagano i garage perché hanno delle rampe ripide e la griglia finale non è sufficiente a trattenere l'acqua che arriva. E il problema dei tombini, soprattutto in autunno, perché il periodo in cui piove di più è l'autunno, e caso strano le foglie cadono in autunno e quindi si bloccano i tombini, e bastano anche 10-15 mm d'acqua, che sono una pioggia più che ragionevole per un mese autunnale, per tappare tutto e per far sembrare la città allagata. Quindi la prevenzione è molto molto importante, perché purtroppo l'uomo ha provocato queste tragedie. Ricordiamo l'alluvione di Genova, hanno cementato delle parti che erano verdi. Ricordiamo l'alluvione della Sardegna di 2 anni fa, il 25 settembre, hanno costruito sui fiumi, perché tanto hanno detto lì non piove mai, i torrenti sono, non c'è mai acqua, hanno costruito sopra. Poi il momento che è arrivata, l'acqua ha trovato un blocco e si è dovuta trovare una strada, portandosi via campeggi, negozi e cose varie. Quindi indubbiamente la mano dell'uomo è fondamentale. Perché questi eventi eventi che si verificano non sono eccezionali, in quanto noi ci ricordiamo quello che è successo. Cioè nemmeno Cleopatra alla fine, riguardo la stagione, rispetto alla stagione, poi è un evento così eccezionale. Assolutamente no, in quanto ottobre è il secondo mese, per Roma è il secondo mese più piovoso dell'anno dopo novembre, quindi le perturbazioni atlantiche sono normali che arrivino e quindi questa pioggia è normale. Tutti si sono spaventati pensando all'anno scorso, perché l'anno scorso c'è stato un vero nubifragio il 20 ottobre, ma non è che perché succede un anno succede anche l'anno successivo, cioè noi non possiamo sapere quando succede, l'importante è che noi cerchiamo di tenere puliti nei fiumi, gli argini, i tombini e tutto per cercare di far arrivare l'evento e portare meno danno possibile. Fermiamoci solo un secondo. Antonio Sanò, ricordo responsabile del portale meteo.it, 35 milioni di contatti al mese, ascoltato adesso in silenzio. Lei vede che alla fine poi la previsione non è che abbia dei caratteri catastrofici in sé rispetto alla stagione, è un po' l'emotività che suscita, è un po' anche l'incuria del territorio in cui va a cadere. Beh, certamente è come questa pioggia poi interagisce con lo stato del territorio, quindi è chiaro che la prevenzione è l'arma principale per far fronte agli eventi, di cui però dobbiamo considerare questi eventi saranno sempre, sembra che possano diventare un po' più frequenti rispetto al passato per un fatto, per vari fattori. C'è una tendenza negli ultimi anni ad avere fenomeni sempre più intensi e di breve durata, la cosiddetta tropicalizzazione del clima. Sì, lo dicono sempre quando stanno seduti ai giardinetti, gli umarell, non sono più le stagioni come quelle di una volta, diventeremo un paese tropicale. In realtà un fondo di verità potrebbe esserci anche in questo. Il tempo è pessimo sull'area mediterranea. Una volta scavatosi un vortice di quel genere è lento a colmarsi, quindi è una soluzione, diciamo, piuttosto differita nel tempo. È invano aspettare domani un miglioramento o dopodomani un miglioramento. Certamente entriamo in una fase nuovamente di tipo autunnale. Poi, verso il fine settimana, entriamo in un'altra fase di tipo invernale, ma con un'onda gelida che viene dai Balcani. Le temperature in parecchie località, soprattutto nelle regioni adriatiche, arriveranno allo zero. È un'altra scuola, è un altro stile. Vengono date con dolcezza, con tenerezza, quasi fosse una poesia, una lieve raccomandazione, non c'è nulla di ansiogeno. Queste erano le previsioni del tempo date dal generale Andrea Baroni, classe 1917, uno dei più famosi uomini del meteo della televisione italiana. Un altro tipo, un altro stile, un'altra maniera. Di Andrea Baroni ci resta una memoria, è ancora vivo, è un signore anziano, ma vivo e vegeto e arzillo, ma non l'abbiamo voluto disturbare questa mattina, ma di lui abbiamo una testimonianza. Annalisa Venditti, buongiorno. Buongiorno. Annalisa Venditti è una giovane giornalista televisiva, scrittrice, ha scritto un libro, Andrea Baroni, Il Cavaliere delle Rose e delle Nuvole, e di Lazio, dove dedica appunto la sua attenzione a questo personaggio. Tu che hai parlato con lui... A un'età veneranda non abbiamo voluto disturbarlo questa mattina, mi sembrava chiamarlo al telefono esagerato. Saluta naturalmente, saluta tutti gli ascoltatori, ecco, con grandissimo affetto. Come è rintracciato questo personaggio e cerca di darci un po' il senso di quella che lui considerava la missione di avvertire delicatamente gli italiani su quelle sarebbero state le perturbazioni? Ma Andrea Baroni mi ha sempre detto, ed è quello che ribadisce tuttora, che la sua era la volontà di suscitare nel grande pubblico l'emozione per una scienza che allora era quasi sconosciuta e che andava però raccontata come l'arte di prevedere il tempo. E io credo che in questo Andrea Baroni sia riuscito perfettamente, con quella pacatezza, con quella serietà che abbiamo poco fa sentito. Tra l'altro tu dicevi c'è non so che di poetico, ma c'era anche di più, perché se uno guardava bene Andrea Baroni si accorgeva che quella bacchetta si muoveva sulla cartina in maniera molto musicale, e non a caso Andrea Baroni è un violinista, e questo particolare del movimento con cui indicava le sue previsioni, era stato notato dagli stessi telespettatori che in molti casi gli hanno scritto lei secondo noi è un violinista, in effetti lo era. Quindi lui aveva un rapporto diretto come fosse con i suoi telespettatori. In che anni lui faceva le previsioni del tempo in televisione? Allora, la rubrica Che tempo fa nasce nel 68 con Bernacca e poi a un certo punto entra nella rubrica anche Baroni e siamo la prima apparizione lui la fa nel 73. Quando nel 79 Bernacca va in pensione si scatena la guerra dei colonnelli, o perlomeno così ho recuperato nelle pagine dei giornali dell'epoca. Chi sostituirà il grande Bernacca? Il giallo si scioglie come si sciolgono tutti i gialli con l'uomo che era già all'interno della rubrica, appunto il colonnello Baroni, che resterà nella rubrica fino al 93, al 31 dicembre 93, che è l'ultimo giorno della sua apparizione in TV. Io come sono arrivata a lui? Non per un interesse meteorologico, lo devo dire subito, perché non ho mai avuto una grande passione per il meteo, mi è venuta ovviamente frequentando il mio grandissimo amico. E sono arrivata a lui perché stavo studiando la vicenda dei militari italiani internati nei lager dopo l'8 settembre del 43, avevo di fronte a me un bellissimo disegno che ritraeva un giovane, la memoria di qualcuno mi diceva che forse era Andrea Baroni il meteorologo, a 90 anni l'ho chiamato, l'ho cercato, sono andata a casa sua e lui mi ha confermato che l'uomo ritratto in quel disegno era proprio lui. A quel punto mi ha raccontato la sua storia di prigioniero, ma non potevo io non raccontare la sua storia di meteorologo e non potevo lasciarmi coinvolgere dal suo entusiasmo, perché è uno dei padri fondatori della divulgazione meteorologica in Italia e tutt'oggi chi ha il piacere di parlarci se ne accorge. È una missione, è una passione nata guardando il cielo. Le previsioni lui le faceva anche nel lager, guardando il cielo. Quindi già dai tempi della prigionia lui aveva questa sua passione nel capire i segni del cielo. Oggi naturalmente ci basiamo anche su altri strumenti, poi c'è soprattutto la grande divulgazione, l'immediata divulgazione attraverso la rete, che fa sì che del meteo diventi uno spettacolo. Ritorniamo con Franca Mangianti, che oltre ad essere climatologa con grande esperienza è anche presidente dell'associazione Bernacca. Quindi lei questa memoria del collega di Bernacca cosa le fa pensare? Allora, intanto saluto con piacere, se ci sta sentendo, Andrea Baroni, che ho avuto modo di incontrare recentemente, perché lui è socio onorario dell'associazione Bernacca, l'ho incontrato all'inaugurazione della stazione Bernacca ed è sempre una persona squisita che veramente è un professionista ed è un meteorologo. Cosa direbbe ascoltando quello che noi stiamo dicendo questa mattina, che in realtà è il punto zero ormai dello stile nel dare le previsioni del tempo? Oggi siamo allo sbracamento totale, ognuno in internet può dire quello che vuole. Esattamente. Poi invece voglio tornare un attimo sulla tropicalizzazione. Come lei ha detto, è una cosa da giardinetto, ha perfettamente ragione, perché questa voce ormai tutti quanti si va verso la tropicalizzazione, verso la glaciazione eccetera. Se noi andiamo indietro nel tempo, perché per i cambiamenti climatici non ci vuole un anno o due anni, ma ci vogliono secoli o centinaia di anni o almeno certe serie storiche, abbiamo visto che con i dati che abbiamo al Collegio Romano di tutta Italia da 230 anni, nel passato ci sono stati sempre dei trend positivi o negativi in cui si andava o verso l'aumento delle temperature o verso la diminuzione. Per esempio il trentennio 61-90 è stato un trentennio piuttosto freddo e con tante precipitazioni. Dal 90 in poi siamo entrati in un trentennio caldo e quindi è così come nel passato, con meno precipitazioni anche se più intense. Dobbiamo aspettare il prossimo per vedere cosa succede, quindi non dire che si va o la tropicalizzazione è una cosa che si dice da sempre, proprio perché ci sono questi trend. Diciamo è il sostituto del luogo comune, non ci sono più le mezze stagioni. Oggi che si legge un pochino di più e c'è internet, si dice ci stiamo tropicalizzando. Sentiamo Arrigo velocemente. Sì, velocemente, buongiorno. Oggi a Milano è una giornata stupenda. Ieri sembrava che venisse giù il mondo. Il problema grosso è che ci stanno angosciando a dismisura con il fatto che piove o c'è il freddo o c'è il sole, ma queste sono cose assolutamente naturali. Ci angosciano semplicemente perché ieri a Milano, dopo 10 minuti di pioggia, le strade erano allagate. Allora le amministrazioni, invece di angosciare noi che siamo già abbastanza, puliscano i tombini e tolgano le foglie, come dice la dottoressa Franca Mangianti. No, la cosa strana è che poi nei negozi ci sono già i pellicciotti e giubbotti e noi andiamo ancora vestiti come vestivamo a luglio. Forse questo è qualcosa che fa pensare. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie Rocchetti, grazie Intonti, ci sentiamo domani.